Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La puntata di giovedì scorso di Anno Zero mi ha fatta veramente arrabbiare. Perché i talk show in Italia devono essere per forza urlati e peggio ancora con le voci sovrapposte tra loro senza che il conduttore intervenga? In Inghilterra, mia madre patria, nel Parlamento, per esempio, si dicono delle cose tremende, ma con garbo, pacatamente e aspettando il proprio turno. Nei vari talk show succede la stessa cosa ed è il moderatore a condurre una vera discussione o dibattito. Qui invece basta ripetere urlando la stessa frase e nessuno dice niente, ma lascia il pubblico con i nervi a fior di pelle. Melanie. Giovedì scorso, ad Anno Zero, ho sentito tante belle parole dallo schieramento di sinistra, dalla fine della politica alla politica spettacolo e via dicendo, senza che si rendessero conto di essere parte ormai di quel carrozzone mediatico che tanto criticano. Mi sono chiesto, ma è mai possibile che oggi anche il giornalismo sia arrivato così in basso? Il mondo è in crisi, ci sono tragedie che colpiscono i paesi poveri, siamo alle soglie di una guerra Iran-Israele che forse verrà combattuta con armi nucleari. E questi nostri giornalisti che fanno? Spendono soldi, tempo e intelletto per indagare sulle parole di Veronica e non sulle questioni e parole di un pazzo iraniano. Dove siamo arrivati? Giampiero. Vorrei intervenire sul tema Berlusconi Lario. A mio sommesso avviso, l'errore di fondo commesso dalla signora Lario è quello di aver rinunziato al ruolo di First Lady per assumere quello di una novella Dama Bianca. La sua presenza al fianco del marito avrebbe potuto invece mitigare certe sue intemperanze, tutelando al meglio la propria dignità di donna e di moglie. Non mancano infatti esempi di donne di primo ordine al fianco di uomini importanti. Non a caso si dice che dietro un grande uomo vi è sempre una grande donna. A fianco di Ciampi abbiamo ammirato un'impeccabile donna franca e molti sono gli altri esempi che ci offre la cronaca e la storia vicina e lontana. Non è infatti credibile pensare che una siffatta scelta della signora Lario sia stata dettata da un desiderio di riservatezza, quando poi è ripetutamente ricorsa alla stampa per mettere in piazza vicende strettamente personali. Mi sembra dunque che la signora Lario non si sia rivelata all'altezza del ruolo che avrebbe potuto e dovuto svolgere. Quanto ai presunti suggerimenti che, a quanto si è detto, sarebbero venuti dalla sinistra. Non si è parlato forse di simpatie Cacciari-Lario? E Cacciari non è forse un uomo di sinistra in grado di esprimere molto meglio della Lario concetti di filosofia politica come quelli contenuti nelle esternazioni pubbliche della signora, spacciate come farina del suo sacco? Berlusconi presta facilmente il fianco alle critiche, perché fa un tipo di politica lontana anni luce da quella tradizionale, quella politica triste e bacchettona di stampo vetero democristiano, fatte ovviamente le dovute eccezioni, di cui l'anemico Franceschini è degno erede. Dimentica Franceschini che taluni personaggi di C partecipavano disinvoltamente a battesimi e matrimoni di boss mafiosi, forse con ben altre finalità e intenzioni? Vero è che, con la favola dei presunti rapporti con minorenni, si vuole insinuare una notizia criminis, che provochi l'intervento della magistratura per far fuori definitivamente l'odiato personaggio che, piaccia o no, è imprenditore moderno che fa politica in modo nuovo e suscita consenso per il suo spontaneo ottimismo, per la capacità di sdrammatizzare le situazioni più critiche, magari anche con una barzelletta. Ben venga dunque un po' di buon umore e di ottimismo nella politica, tanto con il pessimismo e la musoneria non si risolve molto di più. Lettera firmata. Io sono senegalese e vivo a Parma con la famiglia da 10 anni. Mi chiedo quando questo governo parlerà di integrazione per quel 95% e oltre di stranieri che lavorano e pagano le tasse e quindi fanno anche star bene tutti questi politici che urlano contro gli stranieri. Non ho mai sentito i politici parlare di cittadinanza per gli 800.000 bambini nati sul territorio italiano o di inserimento nelle scuole, eccetera. Abdù. Riportare indietro i barconi non basta. Abbiamo speso miliardi per pattugliare le coste per che cosa? Per portare i clandestini in Italia? Oltre a rispedire gli arrivi, dobbiamo mandare a casa loro anche quelli arrivati precedentemente. Roberto. Egregio direttore, visto che i barconi sono pericolosi anche per i poveri immigrati e purtroppo ne sono morti a centinaia nel canale di Sicilia, perché non mandiamo le nostre navi a prenderli sulle coste libiche per poi distribuire qualche migliaio di quei poveretti alla Città del Vaticano e gli altri sotto casa di tutti i buonisti che si stanno strappando i capelli per protestare contro i respingimenti. Tommaso. Io non so se sono l'unico a non capire, ma mi domando perché gli italiani debbano porsi sempre il problema se sono razzisti oppure no. A me personalmente non importa come vengono risolti i problemi dell'immigrazione clandestina. L'importante è risolvere il problema o perlomeno provarci. La cosa deludente è il no a prescindere, posto dalla superiorità morale presunta di una parte politica di questo paese. Spero che un giorno in questo paese ci decideremo a crescere. Orazio. Era la fine degli anni 60 e un bambino pensava al pallone sia di giorno che di notte. Suo padre, la domenica, gli dava una mancia di 100 lire per comprare gli stracadenta all'oratorio e due bustine di figurine panini, che gli apriva con la cura e la tensione con la quale Mike Bongiorno, al giovedì sera, apriva la busta 1, 2 o 3. Quelle figurine giravano per i sottobanchi della scuola elementare, da un alunno all'altro, in un continuo, innocente ma serissimo, mercatino nero. Longoni, Castano, Bercellino, Del Sol, Domenghini, Sormani, Bulgarelli, Peirò e tanti altri. Erano nomi e volti che noi non avevamo mai visto, ma solo immaginato, in quelle cantilene di epica orale tramandata a memoria, come gli antichi poemi omerici. Curicini, Anguilletti, Schnellinger, Sarti, Burnic, Facchetti, proprio così, tutti attaccati e recitati d'un solo fiato, come le vecchie poesie risorgimentali di Giuseppe Giusti, che insisteva a insegnarci il nostro maestro, vecchio reduce della guerra d'Albania. Al pomeriggio della festa, verso le 16, in oratorio, facevamo crocchio attorno ai grandi, quelli del 57 o del 58, che avevano già la radiolina per ascoltare tutti insieme il secondo tempo delle partite. Sì, perché allora, oltre a non vedere, nemmeno sentivamo, e comunque tutto era ridotto della metà. Il secondo tempo a tutto il calcio, minuto per minuto, un tempo in TV alla sera prima di cena, la partita intera solo ai mondiali, a tarda notte, e solo per il papà. I nomi erano tutti nostri e tutti familiari alle nostre orecchie. I pochi stranieri ci facevano timore e impressione soltanto a pronunciarli. Helmut Haller, Karl-Heinz Schnellinger, con quei lugubri suoni gutturali, memoria dolorosa di una lingua ascoltata nella paura 20 anni prima e di cui sapevamo solo dalle parole tristi dei nostri genitori. Poi però usciva dalla bustina gialla la figurina di Cinesigno, nome buffo, da gallinella familiare, razzolante sulle nostre aie, e via a prendere in giro gli juventini tutti. Tra questi sogni, con fatica, cercavamo di imparare la lingua nazionale, col nostro maestro a diventar matto per farci capire che la pila era quello strano aggeggio inventato da Alessandro Volta e non il mucchio di letame depositato al bordo dei nostri campi. Il calcio era un sogno, un'atmosfera immaginata, un mondo fuggevole e lontano ma mitico. E cosa avremmo pagato allora per vedere un pezzo di partita dal vivo, magari da lontano, attraverso le ringhiere di un balcone che dava di sbieco sullo stadio, scoprendone un minuscolo spicchio. Quelle figurine in bianco e nero avevano regalato a quel bambino il sogno di un mondo possibile e immaginato, pulito, fatto di eroi senza macchia, pronti alla morte per la maglia e la bandiera. E intanto quel bambino cresceva, e così il mondo e il calcio cambiavano assieme a lui. Vennero prima gli insulti, poi le risse dentro e fuori lo stadio, e poi le scommesse, i petardi, i coltelli, le stragi. Vennero i contratti liberi, che non facevi tempo a imparare il nome di un calciatore che quello cambiava squadra. Vennero le televisioni, cambiarono le coppe. Tutto si faceva chiaro. I miti di un tempo erano ora null'altro che giovani viziosi e presuntuosi, goderecci e mezzo tossici. Vennero le leghe calcistiche indipendenti e un bel giorno Serie A e B si divisero in caste, l'una richiudendosi in un palazzo diamantato, l'altra lasciata a mendicare le briciole. Non vi furono più promozioni e retrocessioni, si partecipava al banchetto della domenica solo se si avevano i soldi per pagarselo e nessuno voleva restare a digiuno. Gli arbitri, nel frattempo, erano diventati professionisti e continuavano a far danni, questa volta a pagamento anziché gratis. Gli stadi si vuotavano perché divenuti pericolosi e quasi inutili, che tanto si vede meglio in tele. Ci impiegavi 4 giorni a mettere in ordine la classifica. E di nuovo c'erano anticipi, posticipi, ritardi. Recuperi serali o meridiani, vai a capire. Quel bambino, ormai quasi cinquantenne, tirò fuori un bel giorno un vecchio album di figurine ingiallite che il tempo e la sua cura avevano preservato in uno scaffale della cantina. Lo scorse piano piano, riconobbe volti e rilesse nomi struggenti alla sua memoria. Si fermò, tirò un lungo sospiro, guardò il figlioletto di 10 anni che combatteva orrendi mostri digitali sul suo Game Boy e rise, perché capì di essere stato fortunato. Lui aveva potuto sognare. Oliviero. Ci sono molte nazioni in cui nella metropolitana ci sono carrozze riservate alle donne. E questo certamente non per discriminare le donne. Alle donne che si stracciano le vesti per questa proposta, proporrei di subire quello che le donne subiscono in metropolitana nelle ore di punta. Evidentemente, chi critica questa proposta non ha mai provato la sensazione di sporcizia e di violazione che ti prende la prima volta che ti senti palpare in metropolitana. Vorrei che faceste un appello a tutte le donne che sono costrette a prendere la metropolitana nelle ore di punta per farvi dare la loro esperienza. Elena. Caro direttore, speriamo che, visti i risultati di Toyota, Marchionne non decida di comprare anche questa. Cordialmente, Davide Marghera. Gentile Davide, potrei risponderle che è nei momenti di crisi che si possono fare gli affari più interessanti, ma Toyota sarebbe un boccone molto grosso e quindi concordo con lei nel ritenere difficile, se non impossibile, un'intesa tra Fiat e il gigante mondiale dell'auto. Ma la sua domanda è, in tutta evidenza, solo una domanda retorica e nasconde un giudizio negativo verso le ultime scelte della Fiat e del suo amministratore delegato. Su questo non sono per nulla d'accordo. La Fiat ha compiuto negli ultimi anni uno straordinario percorso di risanamento finanziario e soprattutto produttivo, con una ristrutturazione che le altre case automobilistiche hanno solo in parte realizzato. Mettere a frutto questi risultati con alleanze strategiche con altri produttori in difficoltà può finalmente dare a un'impresa italiana un ruolo di leadership in un settore come quello dell'auto, che resterà ancora a lungo centrale nel sistema economico internazionale. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.